Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Amanda Knox libera, vola negli Stati Uniti la famiglia di Meredith. Diteci chi sono i complici di Ghedè. La paura della Grecia accentua la caduta di borse ed euro. Caso Dexia, Belgio e Francia pronti a garantire finanziamenti. Fiat, l'ex sindaco Chiamparino a Radio 24, lo strappo di Marchionne da Confindustria è incomprensibile. Lodo Mondadori, la Fininvest presenta un esposto al ministro della giustizia. Una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione, già in volo per Seattle. Amanda Knox, dopo la soluzione di ieri sera nel processo per l'omicidio di Meredith Kercher, ha già lasciato l'Italia. Conferenza stampa a Perugia dei genitori di Meredith. Allora, grazie per essere venuti nuovamente così numerosi. Quello che succederà questa mattina è che inizieremo questa conferenza stampa con una dichiarazione della famiglia. Che a parlare ad apertura della conferenza stampa è l'avvocato della famiglia Kercher. Seduti uno a fianco all'altro, la famiglia Kercher ha radunato tutti i giornalisti presenti a Perugia per ribadire concetti più volte già disperatamente difesi. Il primo fra tutti è che è morta una ragazza ed è la loro figlia e sorella Meredith Kercher. Una conferenza che non risponde a quasi nessuna delle domande dei giornalisti presenti, ma che invece pone numerosi quesiti. Se ieri hanno rilasciato Amanda e Raffaele, oggi noi ci chiediamo chi è che ha collaborato con Rudy ad uccidere Meredith, chiede il fratello. Oggi la nostra ricerca della verità continua. È ancora molto difficile parlare in termini di perdono. Finché non si conosce la verità, non possiamo perdonare nessuno, aggiunge Stephanie Kercher, sorella di Meredith. La madre è la più triste da vedere sotto la pioggia di flash. Si prova subito una forte empatia per il suo dolore composto, per quel bisogno di tempo che continua a reclamare. Tempo, dice, per metabolizzare la sentenza. Tempo per capire cosa fare e tempo che, come ogni madre che ha perso un figlio, spera possa alleviare il dolore. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il dolore della famiglia di Meredith, ha parlato poco fa anche il padre di Raffaele Sollecito, che invece si gode questi momenti, la libertà del figlio. Allora sentiamo cosa ha detto il padre di Raffaele Sollecito poco fa al microfono di Sky TG 24. Invito comunque queste persone, prima di esprimere un giudizio, a leggersi gli atti, perché se la Corte d'Assise d'Appello ha preso una decisione così netta assolvendo mio figlio con formula piena, vuol dire che nelle carte, negli atti, non c'è scritto nulla che possa in qualche modo identificare la responsabilità di Raffaele nell'omicidio di quella povera ragazza. Lei ha detto che se ce ne sarà la possibilità vorrà incontrare i familiari di Meredith. Certo, io lo spero. Adesso... Anche Raffaele? Certo, perché no? A noi il figlio è stato restituito, ai genitori di Meredith questo non potrà succedere mai, purtroppo. Avete sentito dunque le parole del padre di Raffaele, che è partito dalle polemiche, della gente in piazza ieri alla lettura della sentenza. Ancora cronaca adesso, ma ci spostiamo in Puglia con il crollo che è avvenuto a Barletta. Ha parlato un napoletano di questa sciagura, proprio pochi minuti fa l'ha definita inaccettabile. Ieri appunto è crollata una palazzina e sono morte 5 persone, tutte donne, tra cui una minore di 14 anni. Si riaccendono le polemiche sulla sicurezza degli edifici. Barbara D'Amico ha chiesto al direttore generale della Protezione Civile, Mauro Dolce, quali sono i segnali di pericolo da non sottovalutare. I segnali da notare sono l'apparizione di nuove lesioni che non presenti prima, o il mantenimento di lesioni già presenti. Possono esserci dei piccoli rumori, ma nella sostanza poi non è detto che una lesione sia indice di un possibile crollo. Esistono delle differenze per quanto riguarda la messa a norma degli edifici tra Nord e Sud Italia? Non ne farei una differenza in termini di sicurezza quanto in termini di comportamento. Chiaramente abusi edilizi sono un elemento di riduzione della sicurezza, è importante dare la massima attenzione a questo e consultare un tecnico o comunque chiamare i vigili del fuoco e le istituzioni preposte. Parliamo di Fiat adesso, operai di Termini Imerese ancora in piazza mentre restano le polemiche per la decisione di Marchionne comunicata ieri, il lingotto a gennaio esce da Confindustria. Gli aggiornamenti in diretta con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Dibattito aperto nel mondo produttivo e sindacale dopo l'annuncio dell'amministratore delegato della Fiat Marchionne. Una scelta non politica, ha spiegato Marchionne, che non ha alcun collegamento con i futuri piani di investimento. La D di Fiat, lo ricordiamo, mette sotto accusa in particolare l'accordo interconfederale del 21 settembre che secondo l'azienda di Torino ridimensionerebbe l'efficacia dell'articolo 8 sulla flessibilità del lavoro e sui licenziamenti introdotto nell'ultima manovra economica. Una motivazione questa che non sta in piedi, ha replicato la presidente di Confindustria Emma Marchionne Cegaglia, che ha tenuto a precisare l'uscita della Fiat non indebolirà l'associazione degli industriali. Sul fronte sindacale non mancano intanto le critiche a Marchionne. Non capisco la sua scelta, dice Bonanni dalla CISL, che aggiunge l'articolo 8 della manovra non è stato indebolito. La Fiat attacca, quindi la CGIL non rispetta le regole come accadeva nell'Ottocento. Sentiamo allora la segretaria Camusso al microfono della collega Alessandra Schepisi. Mi pare evidente che si è dato un credito a un'azienda e poi soprattutto a un governo, basta guardare l'articolo 8, che non ha nessun interesse alla crescita, all'occupazione, a dove andrà il paese, ma a scaricare sui lavoratori e a eliminare le regole. Dal governo il ministro Sacconi difende però la scelta della Fiat e dice la notizia importante non è l'uscita da Confindustria, ma la conferma dei suoi investimenti in Italia. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. Il rischio è che il baricentro strategico di Fiat faccia un ulteriore passo oltreoceano. Così commenta la decisione del lingotto l'ex sindaco di Torino Chiamparino. Lo ha intervistato la nostra Anna Marino. Da lettore giornale non mi riesce di vederne le motivazioni così stringenti, ecco, perché anzi sono stato uno dei pochi che da sinistra ha sostenuto le motivazioni di Marchionne nello strappo, nel cercare di modernizzare le relazioni sindacali. Questa uscita da Confindustria forse era nelle cose, però sinceramente io stento a capirne le motivazioni, ecco, stento a vederne le motivazioni. Non vorrei che dietro tutto questo, per dirla tutta, come recita la vignetta del Corriere della Sera, fosse un passo ulteriore per guardare sempre di più oltreoceano e al mondo e sempre di meno all'Italia. Quali conseguenze potrà avere sulla città di Torino? Se devo esprimere un timore è che questo strappo con Confindustria certamente, come dire, non depone a favore di una grande attenzione a ciò che avviene in Italia. Nella misura in cui ci sono delle attività, e io mi auguro che queste continuino a esserci, l'indicazione di questo super Mirafiori mi sembra una direzione giusta, tutto questo mi pare che deponga a favore del fatto che comunque a Torino e anche non solo a Torino resterà un insediamento produttivo. Naturalmente l'uscita da Confindustria non mi sembra un buon presagio pensando al futuro di Fiat in Italia, perché è un conto che ci siano delle attività produttive, è un conto che ci siano dei centri nevralgici delle attività produttive. Parliamo di intercettazioni adesso, delle ultime novità del DDL, lo facciamo in diretta con la nostra Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Un emendamento per ritardare la pubblicazione delle intercettazioni è quello presentato dal capogruppo PDL in Commissione Giustizia Enrico Costa al disegno di legge attualmente all'esame dell'Aula di Montecitorio. Il contenuto delle intercettazioni non potrà essere pubblicato fino all'udienza filtro, anche quelle trascritte nelle ordinanze di custodia cautelare. Per Costa un punto di mediazione sul DDL Mastella. Solo quindi, quando il magistrato avrà selezionato quali sono le telefonate rilevanti o meno, sarà possibile pubblicarne il contenuto. L'opposizione continua a dare battaglia. Per Dario Franceschini, capogruppo PD, si metterà in atto tutte le azioni di contrasto parlamentare per bloccare il via libera al DDL intercettazioni, che definisce una vera e propria porcheria. Si preannuncia quindi l'ostruzionismo dell'opposizione, anche se i tempi sono contingentati. Per Massimo Donadi TV, il PDL è distante anni luce dalla realtà. Con la crisi la priorità è mettere il bavaglio alla stampa. Questo è il commento di Donadi. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, per studio. Grazie Elisabetta. E la Fininvest, lo avete sentito nei nostri titoli, per per sconcertanti omissioni ha presentato un esposto sulla sentenza d'appello del Lodo Mondadori che la condannava al pagamento di 564 milioni di euro. In questo scenario politico che avete sentito c'è Berlusconi che prima annuncia di voler andare in TV, secondo le anticipazioni dei giornali avrebbe annunciato che non si sarebbe più ricandidato come premier, poi all'ultimo momento per impegni sopravvenuti dice di no. Di questa situazione, del ruolo di Berlusconi che da personaggio, da garanzia di successo, ora lo è diventato un po' meno, parliamo e lo ringraziamo con Stefano Folli. Stefano? Eccoci, buongiorno. Buongiorno, dunque Berlusconi, insomma, garanzia di successo, tutti i manifesti, adesso il nome di Berlusconi scompare dai manifesti, annuncia di andare in TV, poi no, ma è vero che avrebbe annunciato la sua non ricandidatura? Ma guarda, questo tema della non ricandidatura di Berlusconi è da tempo, diciamo, all'ordine del giorno, perché si parla comunque di un signore che ha 75 anni, che è sulla breccia da oltre 17, quasi 18 anni, e quindi c'è un aspetto, diciamo, legato a proprio all'immagine e quindi anche al logoramento di una figura pubblica. Quindi non è strano che se ne parli, è strano che tutta questa vicenda sia piuttosto faticosa, no? Fatta di indiscrezioni, di mezze smentite, poi di mezze conferme, e sta a testimoniare anche questo aspetto, che l'Italia è un paese bloccato, è un paese paralizzato in cui tutti i processi, anche diciamo i processi di ricambio, sono estremamente faticosi. Io colloco questa attesa per le decisioni di Berlusconi e anche questo suo ritrarsi rispetto alle occasioni mediatiche che lo vedevano in passato sempre protagonista, lo leggo a una fase di estrema incertezza. Ci metto anche la Banca d'Italia, per esempio, no? Se Berlusconi fosse andato a Porta a Porta avrebbe dovuto dire qualcosa sulla Banca d'Italia, e invece ancora siamo così a sfogliare le margherite, segno di un paese paralizzato e di una leadership profondamente logorata che però non è in grado nemmeno, si può dire, di uscire di scena. Quindi dovremo aspettarci vari colpi di scena nel prossimo futuro, anche se io penso che alla fine Berlusconi non si ricandiderà logicamente. Grazie, grazie a Stefano Folli per questa sua analisi. Prima abbiamo parlato di Fiat, abbiamo detto che a Termini Imerese gli operai della Fiat tornano in piazza. Intanto a Genova questa mattina sono ritornati in piazza i lavoratori della Fincantieri. Il futuro dello stabilimento di Sestri Ponente, dove da più di un secolo prendono forma le grandi navi passeggeri, è tornato a scricchiolare. Le commesse latitano, le strategie di Fincantieri paiono orientate a ridimensionare in maniera pesante il cantiere. Da ieri lo stabilimento è occupato e oggi è un'altra giornata di proteste e di blocchi stradali. Stamane un corteo ha raggiunto il centro, in testa il sindaco Marta Vincenzi e il presidente della regione Claudio Burlando. In segno di solidarietà con gli operai, la seduta del Consiglio regionale è stata sospesa. Una delegazione di lavoratori rappresentanti delle istituzioni è stata ricevuta in prefettura, dove sono stati avviati contatti con il ministro Paolo Romani. Bruno Manganaro della FIOM CGL. Siamo davanti alla prefettura, una delegazione con tutte le istituzioni è salita a incontrare il prefetto e a presentargli questa situazione. Così si alza la tensione ogni giorno di più in questa città. Se non c'è una commessa per il futuro di Fincantieri, la situazione peggiorerà. Sul caso Fincantieri è intervenuto anche l'arcivescovo di Genova e presidente della CEI, Angelo Bagnasco. È il segno di una situazione difficile, ci auguriamo che venga risolta nel modo migliore, ha detto il cardinale. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. Le 13:17 minuti, i nostri titoli. Amanda Knox in volo per gli Stati Uniti, la famiglia di Meredith presenterà appello. La paura della Grecia accentua la caduta di borse ed euro, caso Dexia, Belgio e Francia pronti a garantire finanziamenti. Autobomba a Mogadiscio, 65 morti, c'è la firma di Al-Qaeda. E poi parliamo della fisica, il Nobel è andato a tre studiosi del destino dell'universo. Ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Parliamo di borse, come detto, perché la situazione che si vive in queste ore in Grecia continua a schiacciare, se così possiamo dire, le piazze finanziarie. Proprio da Atene, una notizia appena battuta dalle agenzie, circa 200 manifestanti del sindacato comunista PAME hanno occupato il Ministero del Lavoro ad Atene, dove dunque la tensione resta molto alta, così come in borsa. Vero, Deborah Rosciani? Sì, è così. La notizia che è arrivata nelle ultime ore, quella relativa al rinvio a fine mese della decisione sull'esborso della sesta tranche del prestito alla Grecia da 8 miliardi, sembrava una buona notizia perché la Grecia aveva detto non abbiamo bisogno di questa liquidità almeno fino a metà novembre. In realtà questa circostanza ha fatto incrementare ulteriormente l'incertezza fra gli investitori, non molto convinti di questa non necessità finanziaria, per cui gli indici stamattina hanno aperto male e hanno continuato a peggiorare la loro seduta. Francoforte, la peggior piazza, perde 3,5 punti, Parigi meno 2,83, Londra meno 2,81, Milano meno 2,59 sul FTSE MIB. Ma segnaliamo oggi anche il caso del Belgio, l'indice piccolo, appena 20 titoli, il Bel 20, ma perde il 3% e tracollano i titoli di Dexia, il gruppo bancario franco-belga, che peraltro ha anche delle ampie partecipazioni da parte del governo, sia francese che belga per l'appunto, perché il gruppo ha dei forti problemi strutturali e sarebbe in procinto di essere smantellato, una sorta di bancarotta di fronte alla quale però i governi francese e belga si sono detti pronti ad impegnarsi pubblicamente appunto per fornire garanzia ai finanziamenti della banca. Di fatto però anche questa circostanza stamattina sta mandando evidentemente in forte depressione gli investitori che abbandonano i titoli del settore finanziario, ma oggi vanno male anche i titoli del settore industriale, automobilistico. I titoli Fiat, che naturalmente tengono banco a Piazza Affari, sono in calo tra il 5 e il 6%, quindi sembra essere una nuova giornata di forte difficoltà per la borsa. Anna Rita. Grazie alla nostra Deborah Rosciani, noi siamo alla rubrica Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Scoprire un evasore non significa automaticamente che poi questo paghi. A volte, una volta individuato, magicamente si volatilizza, oppure risulta fallito, avendo prudentemente intestato immobili e altro a mogli, nonne, teste di legno. Alla fine dell'evasione accertata in Italia nel 2009, pari a oltre 26 miliardi di euro, è stato effettivamente riscosso da Equitalia solo il 10%, cioè 2,7 miliardi, con un danno per l'erario di circa 24 miliardi di euro. Tanto per non farci mancare nulla nell'opinione che in Europa hanno di noi italiani, il nostro paese è ultimo in Europa per riscossione. Se noi incassiamo il 10% dell'evasione accertata, l'Inghilterra arriva al 91%, la Francia all'87%, il Belgio all'84%, la Spagna all'81%, ma ci battono anche Albania e Turchia, che riscuotono rispettivamente il 44% e il 58%. Nell'arco di 10 anni, l'evasione accertata, ma non recuperata, è cresciuta e ammonta la stratosferica cifra di 450 miliardi di euro. Un tesoro che lo Stato non sa oppure non può recuperare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo all'estero, almeno 65 persone sono morte, altre 50 sono rimaste ferite in un'esplosione a Mogadiscio, la capitale della Somalia. L'esplosione è stata causata da un'autobomba piazzata di fronte al Ministero dell'Educazione. La vettura si era fermata ad un checkpoint davanti all'edificio. Una rivendicazione è arrivata da parte del gruppo Al-Shabaab legato ad Al-Qaeda. E noi restiamo all'estero con il nostro viaggio in Sud Sudan. Sud Sudan, l'alba di una nazione, di Gigi Donelli. Well, I think this is a very exciting time to be in South Sudan. Questo è il momento giusto per essere in Sud Sudan. Gli Stati Uniti hanno sostenuto il cessate il fuoco, gli accordi di pace del 2005, poi il referendum per la secessione da Khartoum fino all'indipendenza piena del 9 luglio di quest'anno. Questo è il momento giusto per essere a Juba, insiste Peter, perché è ora che il paese non ha nemmeno 100 giorni di storia, che si stringono amicizie, si rinsaldano vecchie relazioni, insomma è un buon momento anche per fare affari. Peter Clavel è senior partner a Tetratech, un'azienda da 13.000 dipendenti, molto vicina al Dipartimento di Stato americano, specializzata nei processi di ricostruzione. Prima di questo avamposto africano si è occupato di Albania ed Afghanistan. Ora lavora su Juba, capitale di un paese da costruire dalle fondamenta che, nonostante una povertà spaventosa, attira grandi interessi e businessmen da ogni angolo del mondo. Il Sud Sudan, mi spiega, è un elemento chiave della stabilità regionale e per questo riceve finanziamenti finanziamenti importanti sia dagli Stati Uniti che dall'Europa che dalla Cina. È dunque povero ma con grandi progetti infrastrutturali da realizzare e poi è un investimento a lungo termine perché questo è un paese ricco di risorse naturali praticamente intatte. Il petrolio ovviamente, prosegue Peter, che insiste però soprattutto sull'acqua del bacino del Nilo che rende fertile milioni di ettari di terre arabili, una ricchezza potenzialmente enorme. Oggi questo paese importa tutto, zucchero, riso, persino la farina di cassava dal Kenya e dall'Uganda, ma in futuro potrebbe essere un grande produttore. Nelle campagne per ora regna l'abbandono, ma secondo Peter e altri che la pensano come lui, è proprio adesso che si vince la scommessa del futuro. Parliamo di Nobel, quello per la fisica è stato assegnato oggi a tre studiosi dell'universo. Tutti e tre hanno giocato un ruolo di primo piano per la scoperta dell'accelerazione dell'universo attraverso l'osservazione delle supernove più distanti. Secondo le loro ricerche, l'universo si starebbe espandendo ad una velocità crescente invece di rallentare. Le galassie quindi si allontanerebbero sempre più l'una dall'altra e la densità dell'universo sarebbe in continuo calo. E se l'espansione continuerà, tutto potrebbe trasformarsi in ghiaccio. Il Nobel per la fisica torna quest'anno dunque alla cosmologia. I premiati sono l'americano Saul Perlmutter, di 52 anni, laureato alla University California di Berkeley, che attualmente dirige il progetto sulla cosmologia e le supernove ed insegna astrofisica al Lawrence Berkeley National Laboratory. Perlmutter ha ottenuto il premio di 10 milioni di corone svedesi a metà, sia con Brian Schmidt, di 44 anni, che ha cittadinanza australiana ed americana e insegna all'Australian National University, sia con Adam Rice, di 42 anni, che insegna astronomia e fisica alla Johns Hopkins University di Baltimora. Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 ore. Intanto è stato confermato il premio Nobel per la medicina assegnato al biologo Ralph Steinman, morto il 30 settembre scorso. Nonostante sia stato assegnato di fatto postumo, la decisione resta immutata, è stato comunicato perché la notizia della morte del ricercatore è stata comunicata dopo l'assegnazione del premio. Noi siamo in chiusura e torniamo a Torino. Abbiamo parlato nella prima parte della Torino operaia, le prese con il nuovo caso Fiat, ma c'è una Torino invece che festeggia moltissimo ed è quella calcistica, vero Dario Ceccarelli? Sì, proprio così, è un ottimo momento perché tutte e due le squadre di Torino stanno bene. La Juventus, dopo le sofferenze degli anni scorsi, finalmente ha trovato un suo equilibrio, anzi una sua euforia, la vittoria sul Milan alla lanciata. Sono tutti pazzi per questo nuovo allenatore Conte, che è soprannominato il martello perché non molla mai, uno grintosissimo. E soprattutto nella Juventus c'è così una riscoperta dell'orgoglio juventino, la voglia di essere i primi. Lo stadio nuovo, questa atmosfera di essere di nuovo i primi della classe. Lo stesso Torino, la squadra granata, vive in parte questa situazione perché è prima in Serie B, bel gioco e quindi tutto sommato non c'è male. A proposito della Juventus, sentiamo Marcello Lippi, un ex allenatore della squadra bianconera, che ha delle belle parole per quello che sta succedendo. La Juventus ha ritrovato, dopo che onestamente negli ultimi anni un pochettino l'aveva persa, ha ritrovato la sua grande caratteristica di sempre, cioè questa determinazione, questa grinta, questa voglia, questa rabbia. Antonio sta facendo veramente quella che è la cosa, che era la cosa primaria, di primaria importanza, di dare questo grande entusiasmo all'ambiente. Quindi grande entusiasmo all'ambiente juventino e grande entusiasmo anche a un'altra bianconera, che è l'Udinese, che è in prima in classifica insieme proprio alla Juventus. È una multinazionale che sta andando benissimo, guidata da Guidolin, un allenatore che così col basso profilo però è sempre in alto e quindi non si può che parlarne bene. Dario, i bianconeri ridono, ma le milanesi invece no. No, le milanesi è un cimitero, diciamo la verità. Cioè, messe assieme non fanno, se si mettono i punti di una e dell'altra non fanno la Juventus e poi ognuna ha i suoi guai. Il Milan esce con le ossa rotte dalla trasferta di Torino e Allegri per la prima volta viene messo in discussione. L'Inter sembrava che si fosse rimessa dal ciclone Gasperini, invece poi le ultime vicende, l'ultima sconfitta, insomma, hanno rimesso un po' tutto in discussione e soprattutto quello che si ha la sensazione di una squadra che non ha ancora ritrovato un suo equilibrio. Era da 25 anni che l'Inter non partiva così male. Grazie, grazie a Dario Ceccarelli per questo aggiornamento. Noi abbiamo tempo per un'altra notizia, una notizia che riguarda la cronaca giudiziaria: perquisizioni e arresti per appalti truccati in Trenitalia. La tangente era il biscotto, il profitto illecito era il carusiello, cioè il salvadanaio. È dalle intercettazioni che emerge la fotografia del sistema di appalti truccati per le forniture ferroviarie scoperto dalla Procura di Firenze. 16 le persone arrestate tra funzionari di Trenitalia, imprenditori e dipendenti dell'azienda campana di trasporto pubblico SEPSA. 42 gli indagati, 56 le perquisizioni disposte in tutta Italia. Le accuse sono a vario titolo di associazione per delinquere, corruzione, truffa, peculato, falso e turbata libertà degli incanti. 8 gli appalti finiti nel mirino dell'inchiesta partita dalla denuncia di un imprenditore del settore. Gare fra i 500.000 e i 3 milioni di euro. Secondo l'accusa, i dipendenti delle aziende di trasporto anticipavano informazioni riservate favorendo un cartello di imprenditori amici, i quali a loro volta per aggiudicarsi l'appalto presentavano offerte pilotate. Io sono una escort, più mi paghi e più te ne faccio, si legge in un'altra intercettazione in cui due funzionari si confrontano sui metodi di incasso delle mazzette. Ferrovie intanto rende noto di aver segnalato le irregolarità già nel 2010 e di volersi costituire parte civile in giudizio. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è davvero tutto per questa edizione curata e condotta da Anna Rita D'Ambrosio. Grazie regia a Roberto Scaltritti. Vi lasciamo in compagnia di Italia in Controluce. Il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.